Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, quindi la trovate su internet. Il blog si chiama Guardie o Ladri. Sapete che ormai da anni tratto solo ed esclusivamente temi di legalità e criminalità organizzata. Allora, oggi è il 29 giugno. Oggi viene presentato a Roma un libro edito da Stampa Alternativa che si chiama Resistere a Mafiopoli, la storia di mio fratello Peppino Impastato. È un colloquio che il collega Franco Vassia ha fatto con Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, il giornalista morto, ucciso in maniera trucida e disgustosa, oserei dire, il 9 maggio 1978. Ucciso perché dalle frequenze di Radio Out gridava tutto il suo sconcerto, la sua rabbia, il suo sgomento, il suo schifo nei confronti di Cosa Nostra e in particolare di un boss di Cosa Nostra, Taltano Badalamenti. Noi dedichiamo questa puntata alla memoria di Peppino Impastato, ma soprattutto lo dedichiamo alla memoria storica che questo paese perde sempre di più. E abbiamo al telefono Giovanni Impastato, il fratello di Peppino. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Allora, io parto, perché non mi piace fare domande scontate, ma parto proprio dalla lettura di un pezzo, di un brano del libro, della sua chiacchierata con il collega Vassia, quando lei dice: trascorrevamo le vacanze estive nella tenuta di nostro zio Cesare Manzella in contrada Munachelli. Negli anni 60 Cesare Manzella era un vero capomafia, il grande boss della cupola mafiosa. Veniva dagli Stati Uniti e aveva sposato una sorella di nostro padre. Leggo ancora da pagina 17. La figura che maggiormente attirava la nostra curiosità di bambini, quindi si riferisce a lei e a suo fratello Peppino, era quella di un amico di famiglia, che poi abbiamo saputo essere Luciano Liggio, oppure, lo dico io, Luciano Leggio, perché l'anagrafe sembra così si chiamasse, allora latitante nella villa di mio zio. Poi più in là racconta della morte di suo zio Cesare Manzella, fatto saltare per aria con il tritolo. Allora le chiedo, anche i muri sanno che la vostra famiglia era una famiglia di mafia molto legata a Cosa Nostra e avete avuto il coraggio di distaccarvi, di abbandonare Cosa Nostra. Le chiedo, ma oggi esiste una famiglia Impastato in Sicilia che sia in grado di fare quello che voi avete fatto? Suo fratello morire e lei porterà avanti il ricordo di suo fratello in questa maniera così degna per la nostra società? Ma sicuramente ci sono delle persone molto coraggiose in Sicilia, su questo non ci sono dubbi, però dobbiamo riconoscere che Peppino Impastato, cioè la storia di Peppino, il caso in se stesso, rappresenta appunto l'unico esempio di rottura non solo all'interno della società, dell'ambiente dove lui viveva, ma soprattutto all'interno della propria famiglia. Ecco, io francamente questo lo trovo sconcertante, Giovanni, perché possiamo capire tutto oggi, ma in un'epoca in cui Cosa Nostra ormai non è soltanto un fenomeno di costume, in realtà non lo è più da decenni, ma è qualcosa che divora, no, la nostra società dall'interno, è uno Stato nello Stato, quindi è per questo che non è stata sconfitta finora come le Brigate Rosse, no? Ma è uno Stato nello Stato. Allora mi domando, ma com'è possibile che la Sicilia non produca degli anticorpi e che quindi non esistano famiglie mafiose che con la stessa forza di suo fratello e della vostra forza si oppongano al regime dittatoriale di Cosa Nostra? Purtroppo perché si vive una situazione particolare, perché purtroppo lì la cultura mafiosa è dominante e domina a un livello altissimo. Sciascia lo diceva nel contesto che quando in un contesto dove domina la cultura mafiosa a un livello altissimo, i livelli di civiltà si abbassano sempre di più. Purtroppo la cultura mafiosa è dominante, però voglio dire, io credo che alcuni segnali significativi ci sono. ancora non ci siamo, c'è molta strada da percorrere, però io credo che negli ultimi anni l'impegno di lotta contro la mafia, soprattutto in Sicilia, è stato forte, è stato evidente con quello che è successo, con molte vicende giudiziarie, non soltanto, ma con i movimenti che continuano giornalmente a lottare e ad essere presenti, con tutta una serie di cose che noi abbiamo contribuito nel nostro piccolo. Qualcuno dice no, però voglio dire che noi abbiamo contribuito, certo, in maniera quasi determinante. Ecco, vorrei fare un'altra domanda. Sì. In occasione delle ultime elezioni politiche, l'allora direttore Ferruccio De Bortoli mi diede il compito di analizzare due programmi elettorali dal punto di vista della lotta e dell'impegno contro la mafia. Scrissi un pezzettino, un editoriale non firmato, attribuibile quindi al direttore, in cui scrissi che né la destra né la sinistra avevano nel proprio DNA la lotta a Cosa Nostra e alla mafia, quantomeno nei programmi elettorali che presentavano. Abbiamo avuto anche una replica molto dura, ma ovviamente il gruppo Sole 24 Ore ha fatto muro e ha difeso quella scelta e quell'analisi. Ora le chiedo, nella copertina io vedo che lei alza il pugno chiuso, quindi un pugno comunista, ai funerali di suo fratello Pempino ed è in compagnia di sua madre Felicia, morta nel 2004, e di sua zia Fara. Ecco, le chiedo, oggi la sinistra e la destra concorda con me che hanno dimenticato che cosa vuol dire lottare veramente contro Cosa Nostra, oppure sono io che mi sbaglio? No, non si sbaglia di tanto, anche il discorso vale appunto pure per la sinistra, anche se ripeto, alcuni segnali non possiamo fare un paragone, però non si sbaglia affatto. Cioè, io credo che viene fuori l'analisi che lei all'inizio trasmissione appunto portava avanti, che era che la mafia non è, diciamo, un antistato, ma è dentro e contro lo Stato. Assolutamente sì. Allora, cioè questo si verifica proprio, infatti anche in Sicilia ha governato pure la sinistra. Certo, no, ma infatti non ne ho fatto una questione né dell'una né dell'altra sponda, proprio perché manca la cultura della legalità con la L maiuscola, però nei programmi elettorali, quindi nella nostra politica, se tale può essere definita. Giovanni Impastato, un'altra domanda a cui tengo moltissimo. Il centro di documentazione Peppino Impastato è forse il maggior centro di documentazione e testimonianza della lotta a Cosa Nostra che è in Sicilia. Alcuni anni fa avevo avuto notizie allarmanti sul futuro di questo centro di documentazione. Oggi qual è la situazione, Giovanni? Ma la situazione è sempre quella, perché quello è un centro autogestito e anche altri movimenti, cioè anche altre associazioni che fanno riferimento alla figura di Peppino sono tutti autogestiti. E allora le difficoltà sono enormi, perché purtroppo c'è questa distinzione. In Sicilia ci sono alcune associazioni antimafia che vengono sovvenzionate con molti soldi e ce ne sono altri che secondo me vengono considerate scomode, dove purtroppo sopravvivono perché vanno avanti autogestendosi. Ecco, io invito... Non è un modo di lottare la mafia questo. Certo. Ecco, sì. Io invito tutti i radioascoltatori, siccome lo ripeto spesso nei confronti dei nostri interlocutori, lo ripeto spessissimo sul mio blog, ormai la legalità è un circuito, no? È una catena che si alimenta di tanti anelli e purtroppo questa catena è molto meno forte, molto meno resistente dell'illegalità, ahimè. Allora dico, visitate, basta digitare sul motore di ricerca centro di documentazione Peppino Impastato e fatevi un giro su questo centro di documentazione coordinato da Umberto Santino, la memoria storica, possiamo dire, tra le più importanti in Sicilia in quello che cosa vuol dire Cosa Nostra e la lotta a Cosa Nostra. Impastato, vorrei fare un'altra domanda. In questo libro, in questa intervista, molto spazio viene dato a tutta la disinformazione che venne fatta all'inizio, i tentativi di depistaggio, spesso si dice di chi muore per mano della mafia che è un femminaro, in questo caso invece no, si diceva che Peppino Impastato era un terrorista. Allora, abbiamo scoperto tutto oppure c'è ancora qualcuno che è riuscito nel frattempo a fare in modo che una parte dei depistaggi dell'epoca fossero giunti anche oggi a compimento? Quindi ci sono delle cose che noi non conosciamo ancora della morte di suo fratello? Sì, c'è qualcosa che non conosciamo, che non conosciamo. E appunto noi già abbiamo una verità che è importante, che degli mandanti, degli esecutori materiali, però chiaramente i depistatori ancora non sono stati puniti. Lì bisognerebbe aprire un'altra inchiesta, aprire un altro processo, per amore della verità, perché io sono convinto che un paese senza verità non può mai avere un futuro. Lei poco fa ha iniziato la trasmissione accennando anche alla memoria, così un paese che non ha memoria non può avere un futuro. Assolutamente. La verità su Peppino Impastato ancora non è una verità completa. Assolutamente. Finché noi non sappiamo realmente, la Commissione Antimafia ha elaborato quella relazione importante, però bisogna perseguire. Bisogna perseguire, bisogna avere il coraggio di continuare a parlare di certe cose, così come fa Radio 24, così come fa questa trasmissione. Basti ricordare che recentemente, grazie proprio alla pervicacia di molte persone, sul delitto Rostagno, del quale si credeva di saper tutto, molte cose sono ultimamente uscite, e quindi, ringraziando Dio, quella verità che si voleva far passare non è più tale. E così bisogna continuare a fare per l'omicidio di Peppino Impastato. Io, nel ringraziare il fratello e nel ricordare il libro che si chiama Resistere a Mafiopoli, editato da Stampa Alternativa, vi lascio con una bella notizia, vale a dire che qui in Lombardia, a Gaggiano, nel Parco Sud di Milano, è stato inaugurato, è nato il Bosco dei 100 Passi, che erano quelli che dividevano la casa di Peppino dalla casa di Don Tano Badalamenti, un bosco dei 100 passi, appunto, un bosco, diciamo così, contro la criminalità organizzata, con questa bella immagine che dovrebbe essere nella memoria di tutti, ora, oggi e domani. Dico grazie a Giovanni Impastato, a Carmelo Lauricella in regia, Laura Fagin in redazione, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.